denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno da Mauro Meazza e buongiorno anche a Deborah Rosciani che, come avete saputo già nei giorni scorsi, ha avuto qualche giorno di vacanza, ma pochi perché martedì 2 gennaio tornerà qui ai nostri microfoni e quindi torneremo a essere due di denari, quest'oggi invece uno di denari, per dir così. Allora, è l'ultima puntata del 2017 per due di denari, avremmo voluto darvi anche delle buone notizie, ma invece dobbiamo cominciare da qualche notizia un po' così, se avete ascoltato il nostro GR, il servizio della collega Livia Zancaner, già sapete di cosa vogliamo parlare e ne parliamo con Davide Tabarelli, che è presidente di Nomisma Energia. Buongiorno, dottor Tabarelli. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. Allora, non è una buona notizia, ma tocca darla, specialmente appunto in una trasmissione che si chiama Due di Denari. Con il 2018, che peraltro è imminente, scattano i rincari sulle bollette di gas e elettricità. Dobbiamo dire, per dovere di cronaca, che già lei ce l'aveva anticipato qualche giorno fa proprio ai microfoni di Radio 24, pronosticando degli aumenti consistenti che poi in realtà si sono rivelati, in base alle delibere dell'autorità dell'energia, anche più pesanti di quello che avevate pronosticato voi di Nomisma Energia. Quindi se ho dei numeri corretti, la corrente potrebbe rincarare del 2,5, il metano del 5%. Sono numeri aggiornati i miei? Dobbiamo dare qualche rettifica ulteriore? Questi sono quelli che abbiamo dati noi, cercando di essere un po' cauti. In realtà invece, il 2,5% dell'elettricità sarà un 5%, anche questo. Ah, ecco, quindi facciamo cifra tonda, così non ci confondiamo, sì, 5, per così 5. Dire. 5,5 sono degli aumenti importanti, però insomma io bisogna cercare di vederci dietro anche qualcosa di positivo che c'è in effetti. Quali potrebbero essere gli aspetti positivi, Tabarelli? Allora, dietro c'è un po' più di inflazione, vuol dire che noi non saremo, tenderemo l'anno prossimo a uscire dalla deflazione. In sostanza questi aumenti sono motivati da vari fattori, ma soprattutto da una buona domanda di elettricità, di gas in Italia, in Europa e poi tante altre cose, ma c'è soprattutto questo, la domanda di energia nel mondo, perché questo ha spinto al rialzo il petrolio, sta crescendo, ma anche il gas, non c'è solo il freddo, anche l'elettricità, e non c'è solo la bassa idraulicità, c'è un po' di congiuntura economica positiva, le nostre fabbriche stanno funzionando di più, perciò c'è più crescita economica. Ecco. Purtroppo da noi in Italia è sempre poco, ma qualcosa c'è. Ecco, allora, riepilogando, avremo degli aumenti che scattano al 1° di gennaio, saranno in vigore fino al 31 di marzo, poi al 1 aprile ci sarà il successivo aggiornamento, saranno nell'ordine del 5% sia per l'elettricità che per il gas. Questo è il risultato delle delibere che sono state approvate dall'autorità dell'energia, cioè l'istituzione che appunto si occupa di aggiornare tariffe trimestralmente. Erano aumenti in qualche modo attesi, pronosticati da voi di Nomisma Energia, anche se con un po' più di prudenza. Dottor Tabarelli, ma possiamo immaginare che questo derivi anche da un aumento del prezzo del petrolio, tanto per vedere un po' di macro dietro a questo tipo di aumenti? Sì, certamente deriva anche da questo, perché il prezzo del gas in Europa, che è quello che poi va a determinare la tariffa del gas in Italia, è salito anche perché c'è tutta una spinta al rialzo delle commodity energetiche, fra cui quella leader è il petrolio. Il petrolio è salito dopo l'accordo OPEC, ma prima già era un po' in ripresa, siamo intorno ai 66. Questa mattina verso i 67, che è un massimo anche questo da metà del 2015, perciò il petrolio aiuta il rialzo del prezzo del gas internazionale, che è la prima determinante della tariffa gas. Poi il gas serve per fare elettricità, in particolare in Italia, e di nuovo questo rialzo della materia prima fondamentale per fare elettricità è una delle ragioni che ha spinto ad un aggiustamento forte al rialzo del 5% della tariffa elettrica in Italia, a questo nuovo massimo oltre 20 centesimi per kilowattora, centesimi di euro per kilowattora, che è un record storico. Ricordo purtroppo che è un massimo che è quasi un raddoppio rispetto alle tariffe che avevamo all'inizio del processo di liberalizzazione nel 2000. Tra l'altro erano parecchi anni che non vedevamo dei rincari così consistenti. per l'elettricità, si tratta di un rincaro così forte, non vedevamo addirittura da intorno al 2013, e per il gas che è più parlerino, perché da quando l'abbiamo ancorato ai prezzi spot in Europa del gas, è anche questo da un paio d'anni che non si vedeva un rialzo così consistente. Il suo discorso sul petrolio mi porta a farle un'altra domanda: dobbiamo aspettarci gli aumenti anche per i carburanti? Qualche cosa già stamattina c'è stato di rialzo, negli ultimi due giorni abbiamo avuto dei rialzi intorno ai 2 centesimi. Sì. Per la benzina non ci sono ampie forchette, abbiamo dei prezzi molto, molto larghi, però questa mattina come prezzo medio che noi identifichiamo per la benzina è 1,56 per un self service su una rete normale, mentre per il gasolio, che è il prodotto più importante, più usato, si arriva a 1,40-1,41. Chi riesce a star sotto con il super sconti, super automatizzato, orari particolari, pompe bianche, anche carte carburanti, molto bravo. Poi attenzione che ci sono prezzi che vanno anche di 20-30 centesimi più alti di quelli che l'ho detto io. Sì, certo, perché abbiamo dato dei valori medi, e quindi se incontrate viaggiando, adesso vi fermate per fare rifornimento e trovate dei valori molto dissimili, non è che siamo male informati o che Nomisma Energia è male informata, è che è un valore medio, e quindi come tutti i valori medi, come sappiamo, taglia i minimi e i massimi e non può darne conto. Le faccio una ultima domanda: noi dobbiamo aspettarci che questa tendenza al rincaro possa essere confermata anche poi ad aprile, cioè nel secondo trimestre del 2018, parliamo di rincari di elettricità e gas? Secondo noi sì, perché quello che prevediamo è un proseguo di questo trend al rialzo del prezzo del petrolio, che trascina un po' anche il prezzo del gas, che a sua volta, come dicevo prima, spinge anche sull'elettricità. Poi ogni singolo mercato ha dei fattori propri che sono anche questi al rialzo, perciò qualche moderato aggiustamento ci dovrebbe anche essere dal 1 aprile e dal 1 luglio ancora. Tuttavia tutto è condizionato da questo trend, da questo buon andamento dell'economia italiana, europea, globale, che potrebbe essere tradursi anche qualcosa di più spinto, di qualcosa di più caldo, e che, ripeto, però la nota positiva vuol dire che dietro c'è un'economia che è in buona salute e abbiamo bisogno di più domande e anche di prezzi più in crescita, pertanto di un po' di inflazione. Ecco, adesso speriamo che naturalmente questo riscaldamento dell'inflazione che ci porta a questi rincari si traduca anche in un miglioramento degli nostri introiti, che siano reddito fisso o di lavoro autonomo, insomma che tutto quanto si trasferisca positivamente e non solo, come abbiamo detto per le bollette, negativamente dal punto di vista economico. Influisce anche la difficoltà dell'idroelettrico, c'è un problema di invasi che hanno poca acqua, l'abbiamo segnalato proprio in questi giorni sul Sole 24 ore. Sì, fra le ragioni che l'autorità indica dell'aumento dei prezzi dell'elettricità c'è anche questo. Ricorda che il 2017 è stato l'anno più secco in base ad alcune statistiche degli ultimi 200 anni, poche precipitazioni. Ricordo che il nostro idroelettrico è uno dei gioielli della nostra industria dell'energia europea, ma anche italiana. Tuttora è la nostra principale fonte rinnovabile, la vera fonte rinnovabile, perché è quella che dà l'elettricità quando lavoriamo, non in maniera intermittente come fa il solare e l'eolico, ed è un patrimonio enorme. Purtroppo però ci vuole l'acqua, ci vuole la pioggia, quest'anno ha piovuto poco, ovviamente nelle ultime ore c'è stato un forte recupero. Queste oscillazioni sono normali, perciò dovremmo nei prossimi mesi, invece l'idroelettrico, la prossima primavera, dovrebbe essere più abbondante, e questo dovrebbe aiutare a contenere i possibili aumenti. Ed è quello che ci auguriamo, naturalmente. Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, per queste precisazioni, questi chiarimenti sugli imminenti aumenti delle bollette di elettricità e gas. E noi andiamo invece adesso al primo argomento, all'argomento che in realtà è quello principale di questa puntata di Due di Denari. Auguri e buon anno, professor Tabarelli. Niente, alla fine mi sono fatto 2 anni dentro per un fa in fame con un amico. Poi sono uscito, sono andato a lavorare al cantiere da mizio. Là tutto bene fino a 3 mesi fa che zio è morto. Mi dispiace. Ma non ha sofferto, C'è la coltellata, gli hanno dato bella precisa qua proprio sulla carotide, sì. E poi c'aveva pure ragione quello che gli ha data, una vecchia storia di poker online. Comunque, E là scoppia il casino, perché i figli cominciano a litigare, sono scannati per eredità. C'è stata una sprediativa legale per la divisione dell'eredità, c'è stata tutta... le famiglie sono così, no? Se litiga per i soldi, come al solito. Scusa, che hai detto? Che ha detto che i figli hanno cominciato a scannarsi, è sempre così i soldi, no? Cioè, quando ci stanno i soldi... Che? No, hai detto una sprediativa legale. Chi? Non so manco che vuol dire. Tu sei laureato. Sono laureato io. Beh, io sono stato chiaro, non assumo laureati. Ma non sono laureato, ma mano che c'ho la scuola a terza media che spingevo il fumo. Non siete affidati. Abbiamo preso questo clip, questa clip da Smetto quando voglio, in cui un improbabile colloquio di lavoro di un laureato, anzi di un ricercatore, poi finisce, come dire, male. Ma perché? Perché vogliamo parlare di lavoro in quest'ultima puntata, ma di una modalità molto particolare di lavoro che nel corso del 2017 ha ricevuto un inquadramento normativo. Quindi c'è stato un cambiamento importante. Parliamo dello smart working, o se preferite lavoro agile. Che significa lavoro agile? Il lavoro agile è quella modalità per cui il lavoro dipendente, il rapporto di lavoro subordinato, viene organizzato anche senza precisi vincoli di orario e soprattutto di luogo di lavoro. Quindi lavorare da casa, lavorare da altrove rispetto al posto di lavoro come lo intendiamo tradizionalmente. Come si fa? Con l'utilizzo naturalmente degli strumenti tecnologici, quindi di collegamenti via computer, via internet e così via. Lo smart working, ripeto, o lavoro agile, è una cosa che si sta diffondendo parecchio. Il Politecnico di Milano ha stimato che siano già 300.000 i lavoratori in Italia, ma sono in rapida ascesa. Dovremmo aspettarcene anche molti altri nella pubblica amministrazione con l'attuazione dell'ultima riforma, la cosiddetta riforma Madia. E allora parliamo di questa modalità, se vi interessa, se siete curiosi, se volete capirne di più. Oggi abbiamo con noi due esperti, sono l'avvocato Francesco Rotondi, che è giuslavorista e che è già in collegamento con noi. Buongiorno avvocato Rotondi. Buongiorno a tutti. E abbiamo il professor Mariano Corso, che è il responsabile scientifico proprio dell'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo di smart working. Se volete fare delle domande ai nostri ospiti, segnalarci delle situazioni, l'avete già sperimentato, lo facevate già da prima che ci fosse una legge, la legge è arrivata verso la fine del primo semestre del 2017. Allora, i numeri sono i soliti: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure volete scriverci un sms o un messaggio WhatsApp: 349 238 6666. Ulteriormente potete anche inviarci un'email, perché no? Due di denari è scritto a lettera due di denari @radio24.it. Allora io comincio dal professor Corso, perché professor Corso, voi avete presentato in ottobre i risultati del vostro osservatorio dello smart working e segnalate che il fenomeno è in crescita, diciamo anche molto importante, una crescita rapida, e che soprattutto si sta diffondendo però più nelle grandi aziende e un po' meno nelle piccole e medie. Dateci qualche altro dato su questi risultati. Sì, dice bene, lo smart working oggi è applicato prevalentemente nelle grandi imprese. Oggi un'impresa su due tra le grandi ha già attivo qualche forma di flessibilità riconducibile allo smart working o la sta introducendo. C'è anche un interesse e una conoscenza molto capillare di questo fenomeno. Quindi si sta diffondendo sia in termini di numero di aziende che lo applicano, che di capillarità di utilizzo all'interno dell'azienda stessa. Cioè all'interno dell'azienda si dà accesso allo smart working grazie a quelli che sono stati poi gli ottimi risultati che sono stati conseguiti con le sperimentazioni a sempre più lavoratori. Non è uguale la diffusione nelle piccole imprese, dove si sconta da una parte un gap, le direi, manageriale, cioè c'è minore conoscenza, c'è una maggiore ritrosia verso queste forme di flessibilità, e quindi il numero di aziende che applica lo smart working in modo sistematico In crescita, è cresciuto in un anno di circa il 60%, però è ancora molto molto basso. Prevalgono più che altro delle logiche di organizzazione informale, cioè si sta diffondendo questa cultura soprattutto tra i lavoratori, che quindi spingono, chiedono di avere forme di flessibilità e in qualche caso riescono ad ottenerle. Ecco, poi, voi segnalate che soprattutto ci sono delle diffusioni delle diffusioni crescenti, più evidenti in alcuni settori, ad esempio nella gestione delle risorse umane, quindi tutta la parte delle aziende che si occupa della gestione delle risorse umane, lì lo smart working risulta dalla vostra ricerca molto diffuso, nella information technology, quindi tutto quello che riguarda il supporto informatico alle attività lavorative, alle attività produttive, e poi il marketing, questo fino alla vostra rilevazione. Però facevate anche delle previsioni, soprattutto per l'area di amministrazione, finanza, controllo di gestione e l'area degli acquisti. Quindi sono un po' queste le mansioni trainanti o dove sembra diffondersi con più facilità questo lavoro agile? Esattamente, perché sono attività nelle quali è più elevata anche la possibilità di remotizzare, cioè di svolgere le attività da altri luoghi, e dove c'è anche una maggiore confidenza con strumenti digitali. In realtà la prospettiva è che si ampli molto la possibilità di applicare lo smart working anche in tutte le altre attività. Ovviamente ci sono alcune attività in cui, tipicamente quelle legate alla produzione manifatturiera, in cui ci sono maggiori vincoli, ma diciamo che grazie anche alla diffusione dell'automazione, delle tecnologie, un certo livello di flessibilità negli orari e nei luoghi da cui svolgere le attività è sicuramente possibile, sta crescendo. Quindi ci sono oggi sperimentazioni importanti anche in attività legate alla produzione, alla manutenzione, alle attività un po' di sportello, questo grazie anche alla diffusione della multicanalità. Quindi io credo che in prospettiva bisognerà trovare forme specifiche di smart working per ogni attività aziendale. Allora, chiamo in causa l'avvocato Francesco Rotondi a questo punto e diamo l'indirizzo della legge che in Italia regola lo smart working. È la legge 81 del 22 maggio 2017, è più nota forse come Jobs Act degli autonomi, perché in realtà in tutta la sua prima parte, nei suoi primi articoli, nei suoi primi 17 articoli, si occupa del lavoro autonomo. Ma dalla articolo 18 in avanti invece parla di lavoro agile. Avvocato Rotondi, leggo da questa legge: il lavoratore agile, lo smart worker, deve avere lo stesso trattamento economico del lavoratore, diciamo, che opera con modalità tradizionali. Mi conferma questo o poi c'è l'aspetto che contratti integrativi, accordi aziendali, accordi individuali possano rivedere o modificare questa previsione normativa? No, le confermo tutto l'impianto e le confermo però evidentemente che poi contratto individuale in primis, accordi integrativi, quindi a livello collettivo, possono integrare migliorando ciò che è il trattamento base riservato a tutti i lavoratori che svolgono le medesime mansioni, no? Quindi il principio base è equità di trattamento economico e normativo, poi l'incremento di quelli che sono i trattamenti base attraverso gli accordi sia individuali che collettivi. Quindi non c'è, ecco, ma forse occorre una premessa, no? Perché noi, prego, parliamo di una legge che ha disciplinato il lavoro agile e come spesso accade il legislatore ci trae in inganno, no? Il lavoro agile non è, come lo stesso discorso del contratto a tutele crescenti, non è un nuovo contratto di lavoro, perché il lavoratore agile è un lavoratore subordinato a tempo determinato o a tempo determinato come gli altri. All'interno del suo contratto c'è una modalità di svolgimento delle prestazioni, quindi noi non stiamo parlando di una novità contrattuale e non era neanche necessario immaginare il richiamo alla parità di trattamento, proprio perché siamo sempre nell'alveo del contratto ordinario di lavoro subordinato. La norma proprio disciplina, dando la definizione di lavoro agile, no? Cioè, viene disciplinato il lavoro agile come una modalità di erogazione della prestazione, che può essere resa in parte all'interno della società, dei luoghi di lavoro aziendali, e in parte all'esterno. Però sono fatte salve tutte le normative che riguardano l'orario di lavoro, nel senso che non è determinato l'orario, ma l'orario complessivo di lavoro deve stare all'interno della normativa che prevede il limite massimo dell'orario di lavoro. Infatti lei ha anticipato quella che sarebbe stata la mia prossima domanda, poi ci fermeremo tra qualche minuto per l'aggiornamento dai mercati, ma volevo chiedere, così facendo però non c'è il rischio che l'orario di lavoro non venga rispettato in un senso ma anche nell'altro, cioè che non si finisca per fare più orario di lavoro rispetto a quanto preventivato dal contratto? Ma guardi, io ho anticipato la sua domanda, ma lei ha anticipato il tema cruciale di tutto quello che sta all'esterno di questa normativa, cioè l'idea che in realtà noi siamo di fronte ad un mutamento del lavoro generale e questa possibilità che le tecnologie ci offre, perché non dobbiamo dimenticare che tutto ciò che abilita il lavoro agile è in primis la tecnologia, no? Cioè il nuovo strumento di lavoro che consente, come diceva il professore prima, la remotizzazione e le connessioni. Sulle connessioni di rete il dubbio e il rischio c'è, ed è un rischio che non puoi arginare, cioè il rischio che esista una overtime nella prestazione è un rischio che non puoi arginare attraverso le normative o il diritto di disconnessione e quant'altro. È un rischio che si argina a livello culturale, cioè tutto ciò che farà la differenza fra il beneficio o il costo di questa nuova modalità di rendere la prestazione, in realtà a mio avviso sta in capo alla componente umana, cioè a colui che governa la prestazione e in primis è l'individuo stesso. Allora la fermo qui, avvocato Rotondi, perché ora noi ascoltiamo l'aggiornamento dai mercati. Se volete intervenire 800240024, per i vostri sms 349-238-6666, torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. Now that your picture's in the paper being perfectly admired, you can have it a one that you have ever desired. All you gotta tell me now is why, why. Allora Elvis Costello ci parla di Working Week, la settimana lavorativa, e noi parliamo di lavoro agile con l'avvocato Francesco Rotondi, giuslavorista, partner di Lablow, e con il professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'osservatorio sullo smart working, il lavoro agile, qui al Politecnico di Milano. Filippo Aureggi questa mattina in regia e Chiara Compagnoni che mi assiste in queste giornate. Allora abbiamo una telefonata, mi pare, Chiara, in linea. Sentiamo Marco da Milano che ci vuole parlare di smart working. Buongiorno Marco. Sì, salve a tutti. Buongiorno. Salve. Niente, io stavo ascoltando la trasmissione, volevo semplicemente dare la mia esperienza positiva a proposito dello smart working, che ormai la società per cui lavoro ha avviato questo progetto da più di un anno, e io sinceramente ero partito non dubbioso, però insomma banalmente uno dice lavori da casa, magari sei più in comodità, lavori di meno, la produttività si riduce perché nessuno controlla e tutto quanto, e invece sia io che altri colleghi che stanno vivendo la stessa esperienza, confrontandoci abbiamo proprio avuto una esperienza totalmente diversa e totalmente positiva. In pratica lavorare da casa, o anzi meglio ancora, si dice lavorare da casa, ma in realtà si può lavorare da dovunque. Da dovunque, esatto, e poi dipende dal lavoro, dall'attività che uno svolge. Per quanto mi riguarda, l'attività cresce, la produttività rimane ben al di sopra degli standard, quindi esperienza totalmente positiva. E posso chiederle, lei di cosa si occupa all'interno dell'azienda? Beh, allora, diciamo che lavorando prevalentemente con supporti digitali, quindi sì, computer, email e così, è più facile per me lavorare da casa, sì, perché l'ufficio è meramente un posto fisico dove collegarsi col computer. Io sono un responsabile di prodotto, di un prodotto sì, comunque online, quindi potrà ben capire che è molto più semplice applicare lo smart working a una professione come la mia. Io non voglio fare il terzo grado, ma lei è lavoratore agile interamente, cioè tutti i giorni della sua settimana lavorativa, no, solo in parte? No. In questo momento si può scegliere un giorno alla settimana in cui si può lavorare da casa, il giorno è praticamente sceglibile dalla persona in totale libertà, ovviamente con le dovute precauzioni, nel senso che se uno ha una riunione fisicamente in ufficio con magari una persona, una esterna, un appuntamento di lavoro, certo. Esatto, anche se comunque questa cosa degli appuntamenti che si riferiscono a riunioni o meeting all'interno con persone e uffici e reparti dell'azienda stessa, uno si può collegare direttamente da remoto, quindi ma anche questo non è un vincolo che limita lo smart working. Non voglio farle un'intervista, ma le faccio un'ultima domanda: le sembra di lavorare più ore stando da casa o meno ore, o più o meno è lo stesso, cioè le ore che farebbe sul posto di lavoro poi sono quelle che fa da casa o da altrove? È totalmente variabile, nel senso che bisogna garantire un minimo di ore in cui si è fisicamente collegati e reperibili, e quelli sono l'orario dell'ufficio, 8 ore canoniche, che però possono essere spalmate nell'arco della giornata, garantendo un minimo di 6 ore nella fascia oraria 9-18 e le altre che uno può lavorare anche al di fuori di questa fascia oraria. Mi è capitato di lavorare anche più ore, perché se ci sono delle consegne, delle emergenze o altre problematiche, uno è come se fosse in ufficio per risolvere il problema, quindi è molto, è variabile. È molto elastica. Sì, grazie. Sì, sì. Grazie Marco, perdoni la nostra curiosità, ma appunto volevamo approfondire anche per agevolare il compito dei nostri ospiti, l'avvocato Francesco Rotondi e il professor Mariano Corso. Avvocato Rotondi, ricomincio da lei su un altro tipo di tutela, che è quello della sicurezza del luogo di lavoro e degli strumenti di lavoro. Da questo punto di vista, qual è la previsione normativa? Allora, direi che questo è il tema più delicato, che a volte ha rallentato, comunque creato qualche difficoltà, cioè quello di dover sdoganare il tema del luogo di lavoro con tutto quello che è il sistema di prevenzione e di sicurezza sul luogo di lavoro, no? Quindi nel momento in cui la prestazione in realtà viene resa al di fuori di quello che è un luogo che è stato ben organizzato e ben tutelato, il lavoratore pone un tema di sicurezza. In realtà su questo anche la legge prevede che devono essere rispettate tutte queste normative. Ci sono delle circolari INAIL sul punto. Il tema poi si riduce a questo: è opportuno far sì che laddove si dovesse accadere un qualche cosa, un infortunio durante l'esecuzione della prestazione lavoro agile, ci deve essere sempre il nesso causale fra quello che è accaduto e la prestazione che era resa. Mi spiego meglio. Sì. Non possiamo immaginare che il lavoratore agile, che in quel momento stava in realtà giocando a tennis, si muova la caviglia, invocare la normativa sulla tutela del luogo di lavoro. Certo, quindi anche se era reperibile durante il terzo set, però questo non significa che stesse lavorando. Esatto, quindi alla fine, voglio dire, il fatto, come sempre accade nel diritto del lavoro, supera la previsione normativa. Bisogna andare a verificare in maniera corretta se in quel momento c'era la prestazione e se quello che è accaduto ha a che fare con la prestazione. Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro, è evidente che qui stiamo sul punto più critico, perché essendo inquadrato nel lavoro subordinato, adesso si applica ovviamente lo statuto dei lavoratori ed ovviamente il famoso articolo 4 Sì. Ovvero quello dei famosi controlli a distanza. Direi che sotto questo profilo siamo un po' più facilitati nella interpretazione normativa, perché è evidente che lo strumento che viene dato e offerto al lavoratore è uno strumento necessario per la resa della prestazione. E allora sotto questo profilo, direi apparentemente, perché finché non avremo una giurisprudenza sul punto nessuno avrà certezza, rientreremmo in questo famoso secondo comma che prevede che quegli strumenti che sono strumenti di lavoro sfuggano alla necessità di un accordo sindacale al fine di poterli installare, utilizzare e ricevere dagli stessi anche, come posso dire, dati e informazioni sulla prestazione. Ecco, quindi direi, perché lì il punto è anche, è chiaro che se l'azienda mi fornisce un telefono cellulare che poi è dotato di localizzatore, sanno se sto facendo questo lavoro agile, che so, dal mare o dalla stazione sciistica, però questo tipo di controllo sul dove sto facendo il lavoro è ininfluente sullo smart working, sulla modalità, è legittimo che l'azienda lo sappia, insomma, non è una lesione della mia privacy di lavoratore. Sì, tenendo presente che la legge prevede che nel momento in cui si conclude un accordo di modalità di prestazione agile, all'interno di quell'accordo vengano disciplinate tutte queste regole, sia dal punto di vista dei comportamenti, sia dal punto di vista della modalità attraverso la quale l'attore di lavoro può controllare la prestazione. Quindi allora, deve essere tutto scritto. Sì. Ritorno al professor Mariano Corso, che come dicevo è responsabile scientifico dell'osservatorio sullo smart working al Politecnico di Milano, e ritorno alla vostra ricerca presentata in ottobre, perché abbiamo fatto l'esempio di quello che stava giocando a tennis, ma in realtà dalla vostra ricerca emerge che c'è anzi un incremento di produttività nelle aziende che hanno applicato il lavoro agile. Verissimo, verissimo. L'incremento, ci sono molte prestazioni che possono essere misurate, che vengono misurate nelle aziende e che mettono in luce un miglioramento sia della qualità del lavoro reso che della quantità, quindi della produttività. Diciamo che un dato medio relativo all'incremento di produttività è attorno al 15%. Quindi i lavoratori, gli smart worker, riescono ad aumentare la loro produttività di questa percentuale, ed è l'esperienza che anche il nostro ospite, il nostro ascoltatore Marco prima andava. E questo non è tanto dovuto al fatto di lavorare magari più ore, ma è dovuto al fatto di avere condizioni di migliore concentrazione, di minore stress, e quindi di poter effettivamente lavorare meglio e quindi avere più produttività. Forse meno interruzioni, non lo so, tiro a indovinare, non ho letto nel dettaglio tutta la vostra ricerca, però... Guardi, noi abbiamo chiesto ai lavoratori quali sono i motivi alla base di questo incremento di produttività, cosa loro percepiscono come miglioramenti, e diciamo proprio il fatto di potersi concentrare, quindi di non essere soggetti allo stesso livello di interruzioni che sono tipiche del posto di lavoro, soprattutto per chi lavora in open space, è ritenuto come uno dei principali, se non il principale fattore di miglioramento. Poi sicuramente il minor stress legato al fatto che non ci si debba sottoporre a commuting, a viaggi, è un altro elemento. I trasferimenti casa lavoro, già appunto se uno lavora da casa, sono eliminati, e quindi un altro elemento di così che impegna tempo in qualche modo, no? Certo, poi i lavoratori, bisogna dire anche questo, i lavoratori entrano in un ordine di idea per cui non vengono più contate in modo preciso quelle che sono le ore in cui si lavora, si permette una maggiore integrazione tra quelle che sono le proprie attività private e le attività professionali, quindi le persone magari riescono a trovare anche con grande soddisfazione la possibilità di svolgere attività, di formarsi, di collaborare con altri anche magari in fasce orarie differenti, quindi diciamo, il rischio che alla fine si possa anche lavorare qualcosa di più c'è sicuramente. Ma forse si lavora organizzando, organizzando meglio il tempo. Allora, a proposito di tempo, è il momento di sentire come va la viabilità, ma torniamo tra pochissimo sempre qui a Due Denari per parlare ancora di lavoro agile o smart working. Traffico. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta Due di Denari. Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. E allora parlavamo di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita privata, e allora mi sembrava che Lucio Battisti, un Lucio Battisti, devo ammettere, un po' dei miei tempi, e Filippo Aureggi dall'altra parte del vetro non è così d'accordo con questa scelta musicale, ma se ne farà una ragione, perché noi dobbiamo parlare, come stiamo facendo con l'avvocato Francesco Rotondi e il professor Mariano Corso, di lavoro agile. Secondo le vostre stime, professor Corso, potrebbero essere addirittura 5 milioni i lavoratori italiani che potrebbero fare uso di smart working, di lavoro agile. Farebbero più o meno un occupato su 5, forse qualcosa di più. Sì, questi sono i lavoratori che hanno condizioni, che fanno tipologie di attività che si prestano a un'applicazione dello smart working così come oggi lo conosciamo. Quindi 5 milioni di lavoratori potrebbero lavorare in modo smart da domani, evidentemente andando poi a sviluppare una serie di policy e anche dando i giusti strumenti, però hanno caratteristiche delle attività che consentono sicuramente una certa flessibilità di orari e di luoghi di lavoro. Per gli altri, i lavoratori italiani sono tra i 22 e i 23 milioni, non è che non sia possibile nessuna forma di smart working, occorrono, diciamo, dei cambiamenti a livello tecnologico e organizzativo che non sono, diciamo, non sono immediati, ma che, allora, certo. Naturalmente potete scriverci, segnalarci le vostre esperienze, 349-238-6666 per gli sms e i messaggi via WhatsApp. C'è ancora qualche minuto per intervenire in diretta, il numero è sempre lo stesso, 800-24-00-24. Ci sarà ben qualche aspetto, abbiamo parlato di questo smart working come di una prospettiva molto interessante, però avvocato Rotondi, lei già ci diceva, abbiamo comunque degli aspetti da verificare, nonostante ci sia una normativa che abbiamo già ricordato, sugli aspetti ad esempio del controllo a distanza che interviene con la tecnologia e su cui dovrebbe essere tutto a posto, ma finché non ci sono gli interventi della giurisprudenza chi può dirlo, e poi sulla sicurezza sul lavoro. Possiamo aggiungere qualche cosa su questi due punti, cioè se lavoro da casa posso poi stare tranquillo, mi succede qualcosa, sappiamo che l'incidente domestico, per dire, è una eventualità sempre molto probabile. No, ma io credo che sotto questo profilo, attraverso qualche piccolo aggiustamento normativo, che si tratta sostanzialmente di andare a classificare questi infortuni ai fini assicurativi, e poi con una buona disciplina del lavoro agile dal punto di vista contrattuale, non credo che si abbia una grande criticità o problematicità nel far ricorso al lavoro agile. In realtà io penso che il tema sia un altro, un po' più strutturale. Faccio questa piccola premessa. Noi abbiamo una norma che addirittura dà una presunzione, no, di opportunità del lavoro agile. Se pensate, l'articolo 18 afferma che il lavoro agile... Che non è l'articolo, non è l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma legge 81. Sì, no, sì, perché l'articolo 18, parlando di lavoro, no, uno pensa immediatamente... Integrazione, licenziamenti e cose varie. Esatto, no, stiamo parlando di un articolo 18 di tutt'altra legge, la 81 del 2017. No, e si dice che il lavoro agile e queste disposizioni hanno lo scopo di incrementare la competitività, no? Dopo si dice agevolare la vita, eccetera, eccetera. Però sembra dire che chi fa ricorso allo smart working, al lavoro agile, aumenta, è una presunzione. Se io farò ricorso al lavoro agile, avrò un aumento della competitività. Quindi assurdo non fare ricorso a questa forma di lavoro, per cui quei famosi 5 milioni di cui parlavamo si realizzeranno rapidamente se questo fosse tutto vero. Il discorso che sta dietro la voragine secondo me è un altro, cioè noi stiamo cambiando il paradigma del contratto di lavoro ed è questo il punto vero sul quale dovremmo riflettere, perché a mio avviso lo sviluppo dello smart working ci sarà, ma il tema è che non può essere classificato alla stregua del normale lavoro subordinato, perché ricordiamo che il lavoro subordinato è ancora fermo ad una presunzione, ad un sinallagma che è la messa a disposizione del tempo del lavoratore a favore di colui che la governa. Con lo smart working e altre formule che già abbiamo sperimentato, noi invertiamo questo paradigma, perché come si diceva prima, e la testimonianza lo ha anche reso questo ascoltatore, noi non lavoriamo più pensando al tempo, alle ore, ma lavoriamo pensando all'obiettivo e al risultato, che è la vera grande trasformazione e la grande sfida del lavoro che cambia. Quando noi invece prendiamo questa modalità di lavoro e cerchiamo di chiuderla all'interno degli schemi che invece riguardano il lavoro subordinato ordinario, credo che lì molto probabilmente avremo qualche frattura e ci sarà bisogno di un intervento un po' più deciso, perché il tema è proprio questo: noi sostituiamo tutto ciò che è controllo, gerarchia, organizzazione ordinaria del lavoro in azienda con la discrezionalità, l'autonomia del lavoratore nella determinazione della prestazione, ma anche con l'assunzione della responsabilità che è quella di dare un risultato. Ecco, questo è uno schema che stravolge completamente il contratto di lavoro subordinato che noi fino ad oggi conosciamo e che ancora è normato. Certo. Quindi, la difficoltà secondo me sta un po' là. C'è un adeguamento anche perché, come sappiamo, le normative sul lavoro sono nate anche in anni ormai lontani, gli anni 70 appunto, non tutte sono state via via adeguate e lo smart working, il cosiddetto appunto lavoro agile, modifica questo. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ultima puntata 2017 di Due di Denari. Grazie al professor Mariano Corsi, naturalmente tanti auguri di buon 2018. Grazie a lei. E grazie all'avvocato Francesco Rotondi, un 2018 agile per tutti, agile e di soddisfazioni, avvocato Rotondi. Assolutamente sì, un lavoro agile come Deborah Rosciani ci ha dimostrato, magari io pensavo fosse da remoto collegata, invece non è stata in linea col tema della nostra giornata. Tanti auguri anche a voi. Grazie, Deborah è stata agilissima, ma tornerà ancora più agile nella prossima settimana con il 2018. Adesso è il momento dell'ultima imposta per te del 2017. C'è imposta per te. Questa ti piace di più, Filippo Aureggi? Oh, meno male che ti abbiamo accontentato, non volevo lasciarti. Perché Figli delle Stelle? E perché Figli delle Stelle a C'è imposta per te? Perché mi tocca fare una precisazione. Vi abbiamo segnalato, avete letto sui giornali, l'avete sentito qui a Radio 24, l'avete letto sui siti, che aumenta il limite per considerare il figlio, solo il figlio, a carico fiscalmente parlando. Allora, adesso il limite è bassissimo: se un familiare guadagna più di 2.840 euro in tutto l'anno, viene considerato non più a carico. Capite che 2.840 euro spalmati sui 12 mesi non sono proprio una cifra mirabolante. Allora, nella legge di bilancio appena approvata, che aspettiamo a momenti di leggere sulla Gazzetta Ufficiale, c'è scritto che il limite solo per i figli, quindi non per altri familiari, il coniuge o quant'altro, sale da 2.840 a 4.000 euro. Non abbiamo proprio considerato un reddito altissimo, però insomma è qualcosa, è un miglioramento. E fin qui tutto bene. E perché allora c'è un'imposta per te da segnalare? Oh, perché questo limite a leggere bene nel dettaglio della legge di bilancio che è stata appena approvata, vale sì, ma dal 1 gennaio del 2019. Quindi riflessi sulle onde scivoliamo. Grazie Filippo, perché mi serviva un pochino di stacco per dare questa cattiva notizia. Allora, per quest'anno 2017 il limite resta per tutti i familiari a carico, figli compresi, 2.840 euro. Per l'anno 2018 pure, quindi 2.840 euro, e c'è un'imposta appena si sale da questo limite. Salirà a 4.000 euro dal 1 gennaio 2019. Beh, a questo punto, scusate, ma mi viene da dirlo col punto interrogativo, salirà veramente dal 1 gennaio 2019 o invece quando arriveremo in fondo all'anno 2018 magari, chissà, faremo una proroga, rinvieremo ancora? Staremo a vedere, ma ve lo diremo sicuramente qui a Due di Denari. Quindi restate collegati come sempre con Radio 24. Io vi ringrazio, faccio i miei migliori auguri a tutti quanti, a tutti i nostri ascoltatori, a tutti quelli che ci hanno scritto in questi mesi, in questi primi mesi del nostro programma. Naturalmente un augurio grandissimo a Deborah Rosciani, che so che ci ascolta in remoto, è una ascoltatrice agile, per così dire. E un augurio altrettanto grande a Filippo Aureggi, questa mattina in regia, ad Andrea Roccabella, che è pure lui comparso forse a sorvegliare quello che stiamo facendo in questo finale, a Chiara Compagnoni, che mi ha assistito in questi giorni, e naturalmente a Marco Lombardo. Davvero un buon anno agile, un buon grande 2018 a tutti da Mauro Meazza.